Sono qui. Aspetto l'autobus. Arriverà. Ho chiesto alla signora vicino, mi ha detto che aspetta già da 10 minuti. Chissà dove stanno gli autobus prima di prenderli. Secondo me stanno dietro l'angolo, ma non partono. Conducente, chissà se mi pensi.